stacco. Un muro, un tumulo, tutto è perso e finisce. Sofferenza e fatica, disperazione e dolore, per chi muore, per morire, per finire. La vita è una rosa piena di spine, la vita è un fiore, la sera è falciato. Un tunnel, un salto, sono nel vuoto, sono nel pianto. La vita è una rosa piena di spine, la vita è un fiore, la sera è falciato. Un tunnel, un salto, sono nel vuoto, sono nel pianto. La vita è